Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata e ben ritrovati da Giampaolo Musumeci a questo appuntamento domenicale con le migliori interviste della settimana di Nessun luogo è lontano. Ad agosto siamo in onda tutti i giorni alle 16. Nella prima settimana di programmazione abbiamo dedicato le prime 5 puntate alla costruzione di un piccolo glossario che ci aiuti a orientarci un po' meglio, a comprendere un po' di più il mondo in cui viviamo. Lo abbiamo fatto dedicando ogni giorno la puntata a una parola chiave: armi, frontiere, nuove frontiere, risorse e terrorismo. Partiamo proprio dalla lettera A, A come armi, uno degli oggetti più illegalmente commerciati al mondo. Per capire come e dove circolano le armi e soprattutto quali sono gli effetti di questo commercio, ho parlato con Simonetta Grassi, che è responsabile del programma mondiale sulle armi da fuoco della UNODC, l'Agenzia Anticrimine delle Nazioni Unite. Il traffico illecito delle armi è un poco come il veicolo oppure il combustibile che alimenta i conflitti armati, che alimenta la criminalità, sia la criminalità ordinaria come anche naturalmente e soprattutto la criminalità organizzata, ed è anche sono anche degli oggetti molto lucrativi del traffico illecito. Si parla di un mercato anche molto importante, e quindi studiare i traffici illeciti, i movimenti di queste armi è anche importante, non soltanto per seguirne le tracce, ma anche per capire, identificare quali sono i paesi di origine e di destinazione finale di transito dove questi traffici vengono commessi, e questo poi ci riporta anche alla possibilità di stabilire connessioni con gruppi terroristici, con criminalità organizzata, e anche a capire quando i traffici vengono commessi da funzionari di Stati, quando si parla della grande corruzione. Quindi studiare i traffici illeciti è un modo per studiare la criminalità anche più ampia. Ecco Grassi, prima di tutto, come conducete la vostra analisi? Due parole sulla metodologia, poi ci addentriamo invece proprio nel merito dell'analisi stessa. Ecco, vorrei differenziare. La UNODC ha condotto degli studi di carattere regionale finora, che avevano come oggetto quello di studiare i rischi e i pericoli connessi alla criminalità organizzata. In questo contesto ha fatto uso di una varietà di fonti anche ufficiali e non ufficiali. Adesso da poco abbiamo lanciato, stiamo lavorando sul primo studio globale che concentra sul traffico illecito delle armi, ed è uno studio che cerchiamo di realizzare in collaborazione con gli Stati membri. Abbiamo preparato dei questionari che hanno come oggetto ricavare informazioni sulle armi sequestrate dagli Stati, al fine di dedurre dall'analisi di queste armi sequestrate e dalle loro origini e da tutta una serie di indicatori che vengono inclusi in questi questionari, cercare di capire, di dedurre un poco qual è la natura transnazionale di questo traffico, quali sono le vie, le rotte del traffico, la dimensione. Quindi questi questionari sono fatti in altri paesi e noi stiamo cercando di ricavare informazioni dal 2010 in poi, proprio per poter anche identificare delle tendenze. Per il momento abbiamo avuto risposte da nemmeno circa 30 paesi, soprattutto paesi del Sud America, però abbiamo anche avuto risposte da paesi dell'est, dell'Europa dell'Est, Romania, Russia e alcuni paesi dell'Africa. I paesi baltici hanno pure risposto, non hanno risposto gli Stati Uniti, la Cina, il Canada, altri paesi esportatori. Purtroppo, speriamo di ottenere anche da loro l'informazione. La interrompo Grassi per sapere, ad esempio, se l'Italia ha risposto. No, ancora no, però speriamo che risponda. Chi è il soggetto che nella fattispecie risponde? Cioè quale ministero è deputato a darvi questo tipo di informazioni? Il Ministero dell'Interno, immagino? Eh sì, il Ministero dell'Interno, perché si tratta di informazioni su delle armi sequestrate. Noi naturalmente come procedura scriviamo ai rispettivi ministeri degli esteri, certo, e poi chiediamo di canalizzare la richiesta all'istituto competente. Certo. Lei ha identificato una relazione tra, diciamo, i paesi più reticenti nel rispondere Cioè, quelli più reticenti nel rispondere sono anche i paesi esportatori e produttori di armi? O è una domanda troppo maliziosa? È un po' maliziosa, diciamo, perché per esempio abbiamo risposte dal Brasile, che è uno dei maggiori paesi esportatori, abbiamo risposte dall'Argentina, che nella sua regione pure è uno dei maggiori paesi esportatori, certo a livello regionale, e quindi da questo punto di vista forse non è facile da dire. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Possiamo dire che, considerando i paesi che hanno partecipato allo studio, e come dico adesso senza volere poi dare un peso maggiore a una regione piuttosto che all'altra, però è una realtà che l'America Latina ha risposto in maniera molto più rilevante, abbiamo molti più stati dell'America Latina che hanno risposto, quindi se si rapportano i dati alla popolazione, dei paesi come il Salvador, come, che hanno dei grandi problemi di criminalità, hanno anche uno dei tassi più alti di sequestri. Se invece prendiamo valori assoluti, allora lì abbiamo il Messico, che è notorio per avere dei tassi altissimi di sequestro, no? Di sequestri di armi. Poi se si rapporti, continuiamo sempre a rapportare i valori dei sequestri alla popolazione, per un po' per poter comparare anche i dati, vediamo che anche i paesi, e come dico qua si sta solo comparando i paesi che hanno partecipato allo studio, quindi non vorrei che poi venissero assolutizzati questi dati, certo. È chiaro, o classificati, perché ci mancano tanti paesi, però per esempio può essere sorprendente vedere che il Montenegro ha una incidenza relativa abbastanza alta se si rapporta il numero di sequestri alla popolazione. Mi viene in mente un'osservazione da fare. Il vostro studio fotografa quello che è fotografabile, che detta così sembra un'ovvietà, però se riflettiamo ad esempio sull'apertura degli arsenali libici, in cui un numero considerevole di armi leggere e pesanti si è poi sparpagliato in paesi dell'Africa e non solo, alla fine da dire che il vostro studio fotografa quello che può fotografare, c'è una vasta zona oscura che è lì, e come potrà emergere ad esempio? Allora, sì certo, se i paesi ci dessero questa informazione, diciamo che attraverso lo studio si potrebbe identificare l'origine delle armi, perché nel questionario noi domandiamo anche, innanzitutto avendo una sequenza di dati a cominciare dal 2010, è possibile vedere se c'è un incremento. Abbiamo notato che alcuni paesi, come la Turchia e la Siria, per esempio, hanno avuto un incremento nel 2013. Voi sostanzialmente lottate contro questo enorme buco nero e cercate di ampliare l'osservabile e l'analizzabile, diciamo. Sì, con informazione empirica, e cerchiamo di coinvolgere gli stati affinché ci sia anche un senso proprio di appartenenza. Questi sono dati che ci appartengono e quindi anche i risultati delle analisi ci appartengono, quindi speriamo di essere anche partecipativi in questo senso. E questa era l'intervista di lunedì a Simonetta Grassi, responsabile del programma mondiale sulle armi da fuoco del UNODC, l'Agenzia Anticrimine delle Nazioni Unite. Martedì invece abbiamo affrontato un altro traffico, quello degli esseri umani, che attraversa le frontiere, quindi F come frontiere ma anche come fortezza, Fortezza Europa, se pensiamo all'atteggiamento che molte nazioni e forse l'intero continente ha avuto in più di una occasione. Ne ho parlato con il professor Fulvio Vassallo, paleologo, docente di diritto d'asilo all'Università di Palermo. In realtà chiusura non significa impedire che le persone comunque entrino, significa soltanto alzare il prezzo in vite umane per quelli che cercano di arrivare, sono in gran parte richiedenti asilo, e significa anche rendere assolutamente precarie e al limite dello sfruttamento servile le condizioni di quelli che riescono ad entrare, in qualche modo poi rimangono con un permesso di soggiorno. Quindi in realtà la Fortezza Europa è una fortezza molto permeabile, molto aperta, e le politiche di sbarramento servono soltanto a comprimere i diritti delle persone che riescono a farcela per entrare, anche quando avrebbero diritto all'accoglienza, all'integrazione come richiedenti asilo, e poi sbarra anche la porta in faccia soprattutto a quelli che non ce la fanno, perché i controlli, perché anche la impossibilità di disporre di canali umanitari per l'ingresso protetto, anche l'ACNUR, le Nazioni Unite recentemente hanno sollecitato per i titolari di status di protezione già riconosciuti in Libia questa possibilità in Europa, però l'Europa e l'Italia non accettano questa proposta, e qui quindi poi le persone muoiono in mare. Che cosa non funziona nella legislazione italiana e europea? Qual è la falla più grossa a suo avviso? Ma innanzitutto l'Europa non è stata capace di darsi una normativa uniforme, quindi abbiamo delle normative molto differenziate, malgrado l'apparente veste formale omogenea conferita dalle direttive dell'Unione Europea, però poi le prassi applicate dalle polizie. Basti pensare che in Olanda o in Svezia per chiedere asilo e ottenere una risposta bastano 3 mesi, si ha diritto ad un'accoglienza dignitosa. In Italia abbiamo casi sull'anno e mezzo in media, con punte di 2 anni per ottenere una risposta sulla richiesta di asilo. Quindi da questo punto di vista ci sarebbe la necessità di una anche attività dell'Unione Europea di controllo su quegli stati che non garantiscano standard omogenei, perché questo poi evidentemente sposta la pressione anche dei richiedenti asilo soltanto su alcuni paesi, e questo è anche testimoniato dal fatto che tante persone che arrivano in Italia dall'Italia se ne vogliono andare. L'altro aspetto pure importante è che l'Europa non ha una politica del lavoro, non ha unitaria, e quindi anche da questo punto di vista la precarietà, la flessibilità penalizzano tutti i lavoratori europei e non europei, ma ovviamente poi i migranti sono i più deboli sul mercato del lavoro e più esposti ai processi di precarizzazione, di flessibilità. Questo vale anche per gli irregolari, per tante persone che lavorano alcuni mesi o qualche anno e poi possono essere espulse o respinte senza nessun problema di carattere giuridico, senza che i loro diritti vengano riconosciuti, anche i diritti alla retribuzione già maturata nei confronti dei datori di lavoro. Quindi non è questione di essere pessimisti o ottimisti, è questione di guardare la realtà, di guardare come vanno le cose e di capire che una diversa politica sarebbe possibile. È stata anche in qualche modo adombrata in alcuni documenti dell'Unione Europea negli anni passati, ma se guardiamo le conclusioni dell'ultimo Consiglio Europeo di Bruxelles oppure le conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'Interno e della Giustizia che si è riunito pochi giorni fa a Milano, queste conclusioni sono tutte orientate al problema della difesa dei confini e magari alla possibilità di stipulare accordi con paesi che non garantiscono i diritti umani come la Libia per bloccare lì i migranti e non farli partire verso le coste italiane, verso le coste europee. Professore, quando ascoltiamo la litania dei politici italiani che dicono l'Europa non ci aiuta abbastanza, io ho un'impressione che sia pretestuosa come obiezione, perché è vero che noi ci occupiamo della prima accoglienza sempre in termini emergenziali, e questo è incredibile, perché insomma sono 15 anni che sappiamo che ci sono gli sbarchi, quindi parlare di emergenza risulta un po' stucchevole, però alla fine sono i paesi del nord che si fanno carico, no, di questi migranti per tutta la vita, perché poi c'è un'accoglienza diversa. Allora non trova un po' stucchevole questo rimproverare l'Europa di non fare abbastanza, quando poi i paesi del nord Europa fanno moltissimo per tante comunità? Ci sono diaspore eritree, somale nel nord Europa, no? Per quanto riguarda la seconda accoglienza e l'integrazione è sicuramente così, però se noi pensiamo alle richieste di sostegno delle operazioni di salvataggio che nel nostro paese sono state lanciate dal 18 ottobre del 2013, e mi riferisco a quel mese anche perché in quel mese ci furono 2 tragedie terribili, come la strage del 3 ottobre a Lampedusa e quella dell'11 ottobre tra Malta e Lampedusa, che costarono diverse centinaia di morti. E questo è bene che si ricordi ancora oggi quando si attacca la missione Mare Nostrum. Bene, se noi pensiamo a quello che spende l'Italia allora per l'attività di salvataggio, peraltro doveroso in base alle regole del diritto internazionale, e a quello che mette l'Europa sul piatto, e tra l'altro dopo aver promesso anche, ricordiamo Barroso a Lampedusa, ottobre, affranto di fronte alle bare con le vittime, che aveva promesso 30 milioni di euro, bene, e queste operazioni di salvataggio hanno un costo. Ed è un costo che al momento è sopportato in gran parte dall'Italia. Per capirci, l'intero bilancio di Frontex per un anno si aggira attorno agli 80-100 milioni di euro, sì, che è quasi meno di quello che spende l'Italia sempre per un anno soltanto per l'operazione Mare Nostrum, se questa operazione durerà 12 mesi. Sì. Quindi è evidente che se 27 paesi in un anno per la sorveglianza delle frontiere esterne e spendono, compresi aeroporti e comprese operazioni di rimpatrio, perché poi il budget di Frontex in realtà è un budget che in gran parte serve per finanziare voli di rimpatrio, sì, di persone che vengono espulse, non serve per fare attività. attività di salvataggio. Sì. Questa è un'altra cosa che andrebbe chiarita quando qualcuno chiede di sostituire Mare Nostrum con Frontex, perché Frontex fa controllo, respingimento, espulsione, non fa salvataggio come sua missione principale. Ci abbiamo citato Frontex, insomma, la cui attività spesso è stata criticata, è stata contestata, e giustamente lei ha citato questo budget da 100 milioni di euro. Io ho avuto modo in un paio di occasioni di lavorare con una fattispecie, ricordo, la polizia bulgara al confine fra Turchia e Grecia, ed erano membri di Frontex. La sensazione che ho avuto era di assoluta inefficacia, cioè stavano lì, guardavano e poi chiamavano la polizia greca nel momento in cui vi era un passaggio del confine tra Turchia e Grecia. Lei come valuta l'operato di Frontex? C'è chi dice, in estrema sintesi, è un gigantesco baraccone mangia soldi. Dunque, l'operatore di Frontex risente molto dei rapporti tra i paesi interni e i paesi esterni all'Unione Europea. Frontex tra il 2006 e il 2007 ha permesso di ridurre, intervenendo direttamente, del 50% l'immigrazione irregolare in Spagna, dal Marocco e dalla Mauritania, sì, con un costo molto elevato anche in termini di vite umane. E Frontex in Grecia è dovuta intervenire direttamente con propri funzionari, propri mezzi, per sostituirsi praticamente alle autorità greche, che erano incapaci di fermare l'ingresso dei migranti, anche qua in gran parte iracheni, siriani, sì, richiedenti asilo, afghani, che provenivano dalla Turchia. Sì. E anche lì abbiamo avuto, sino a poche settimane fa, morti sia in mare che al confine greco-turco. Quindi, diciamo, Frontex in alcune realtà ha fatto un intervento efficace dal punto di vista della riduzione dei numeri, però a scapito delle persone, perché si è notato, soprattutto sul canale libico, che l'80%, lo dice l'Alto Commissario per i Rifugiati, di persone che arrivano dalla Libia in queste settimane in Italia, sono tutte persone che, se toccano il nostro paese o un qualunque paese europeo, hanno diritto al riconoscimento di uno status legale come rifugiati, titolari di protezione internazionale, umanitaria, sussidiaria. Comunque vediamo quello che succede in Siria, vediamo quello che succede in Libia. L'ACNUR poche settimane fa ha censito in Libia 17.000 siriani, per esempio, persone censite, riconosciute meritevoli di tutela, ma che non si riesce a far partire legalmente dalla Libia. Sarebbe fondamentale che, piuttosto che pensare a rinforzare e a finanziare missioni di contrasto dell'immigrazione irregolare, si desse la possibilità a questi 17.000 siriani che vengono dall'inferno, che vediamo tutti i giorni anche con video abbastanza agghiaccianti diffusi nella rete. Ebbene, queste persone avrebbero diritto ad arrivare tranquillamente in un qualunque paese europeo, e 17.000 persone che entrano in Europa non credo che sarebbero un problema per le popolazioni europee, assolutamente, ma anche se fossero 170.000 su un territorio che contiene più di 550 milioni di abitanti, non dovrebbe assolutamente essere un problema, quando tra l'altro i paesi europei concedono milioni di visti d'ingresso all'anno per immigrati, che molto spesso poi rimangono nel territorio svolgendo attività lavorativa in nero. Quindi, certo, diciamo, questo discorso di difesa delle frontiere e dei confini si rivolge verso i più deboli, verso donne, verso bambini, verso richiedenti asilo, mentre invece chi normalmente si muove per lavoro comunque entra con un visto temporaneo, anche per pochi giorni, e poi rimane dopo la scadenza del visto, basta pagare. Ma chi entra per lavoro talvolta ha anche i mezzi, o può farsi prestare i mezzi per entrare con un visto d'ingresso, e quindi il problema della presenza di immigrati irregolari in Europa si lega alla gestione del mercato del lavoro, lo sfruttamento che conviene a tanti degli immigrati che entrano, e non è affatto da confondere con l'aumento, anche se questo aumento fosse esponenziale, di coloro che vengono a chiedere protezione, che sono un numero molto più ridotto rispetto alle persone che comunque varcano le frontiere europee e poi, dopo un breve periodo, cadono in una questione di irregolarità, pur continuando a lavorare in nero presso una famiglia, presso un albergo, presso un cantiere edile, presso un imprenditore agricolo. Nessun luogo è lontano. Di nuovo in onda con Nessun luogo è lontano, in questo appuntamento domenicale con le migliori interviste della settimana. Mercoledì scorso abbiamo parlato della lettera RR come risorse, cioè petrolio, ferro, stagno, ma anche acqua e legno. Le risorse, povere o ricche che siano, quelle risorse cui sfruttamento da parte degli stati o delle multinazionali provoca inevitabili squilibri economici, politici e sociali. José De Salvo, responsabile delle campagne di Mani Tese, ci ha presentato un primo tentativo di mappatura effettuato dalla sua associazione. A lui ho chiesto qual è il caso più eclatante che hanno studiato. Sì, Sì, è un planisfero online che guida il navigatore alla scoperta di alcuni tra i più importanti casi di accaparramento di risorse, agiti sia da investitori pubblici che privati, che sembrano ormai in concorrenza impazzita, una corsa folle alimentata a queste risorse, povere o meno povere, è una corsa folle alimentata da, secondo noi, un modello di sviluppo che si ostina a non considerare i limiti che la natura impone loro, facendo questo genera tutta una serie di impatti ambientali e sociali in quei paesi che potremmo definire ricchi di risorse ma paradossalmente poveri di reddito. E quindi navigando nella mappa interattiva, che è uno strumento dinamico aperto a essere alimentata nei prossimi mesi con ulteriori nuovi casi da parte nostra come Humanitese, ma anche dei nostri partner italiani ed europei, ecco, dentro questo manifesto, con questa mappa, si raccontano tutta una serie di storie, in particolare delle storie di quelle comunità locali che sono praticamente sempre più estromesse da qualsiasi negoziazione che riguardi risorse fondamentali per il loro sviluppo, che sono sui loro territori da millenni e su cui loro non hanno per niente voce in capitolo. Quindi raccontare queste storie è anche ridare voce a quelle comunità locali che oggi non ce l'hanno, e quando cercano di alzare la voce per dire scusate, ci siamo anche noi, spesso vengono criminalizzate o dai guardiaspalle del settore privato che lì va a intervenire, o direttamente dalle polizie degli stati in cui vivono. Quindi attori privati, attori istituzionali funzionano bene lì dove o i governi sono corrotti o corruttibili, o dove i governi sono fragili. In tutto ciò la parola d'ordine, dicevi appunto, è accaparramento. È una parola che è entrata nel lessico anche mediatico italiano, soprattutto per ciò che riguarda la terra. Qual è un caso eclatante dei credo 12-10 per adesso che avete mappato, che vorresti segnalare in qualche modo perché ha delle sue peculiarità? Ma fra i 16 casi studio mappati che riguardano i 10 paesi, penso che quello più simbolico, tanto simbolico che ci abbiamo fatto un film, un prodotto per la prima volta nella nostra storia, un film documentario di 75 minuti che si chiama Adelante Petroleros, l'oro nero dell'Ecuador, è guarda caso in Ecuador, e riguarda questo mega giacimento di petrolio scoperto sotto il Parco Nazionale degli Yasuní, che è una delle principali riserve di biosfere al mondo, ha una percentuale di biodiversità che è superiore da sola a quella che trova in tutto il Nord America, Stati Uniti e Canada messi insieme, e anche terra di popoli indigeni non contattati, sì. Quindi chiudo per non farla troppo lunga. Questo caso è importante perché ha il petrolio come simbolo di tutte le risorse in fase di accaparramento, e l'Ecuador come simbolo di quella categoria di paesi che ti dicevo ricchi di risorse ma poveri di reddito. Ebbene, sull'Ecuador noi siamo andati a fare uno studio, da una parte abbiamo studiato e ristudiato gli effetti tragici dello sfruttamento di petrolio della Chevron Texaco, che è stata condannata 2 anni fa a risarcire 8 miliardi di dollari alle 30.000 persone che aveva in qualche modo colpito sulla sua estrazione criminale. Dall'altra siamo andati a documentare, o cercavamo di fare quantomeno, documentare una delle proposte più innovative che sono state messe sul tavolo dalla comunità internazionale da direi 40-50 anni a questa parte. Sì, ecco, la proposta... Giulio, ti interrompo perché ascoltiamo proprio quella proposta innovativa dalle parole, dai suoni, dai contenuti di quel documentario diretto da Maurizio Zaccaro. El día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní y Teté y con ello poner fin all'iniziativa. Allora, abbiamo sentito le parole del presidente ecuadoregno che, insomma, 6 anni fa fu una proposta pazzesca, scompigliò le carte anche, no, della politica, delle logiche, dell'economia, poi però raccontaci meglio come andò a finire quella proposta. Sì, diciamo, nell'estratto che avete mandato avete sentito quello che per ora è l'epilogo di quella che era un'iniziativa gloriosa, nel senso che nel 2007 il presidente Correa, su spinta dei movimenti indigeni ambientalisti dell'Ecuador, ha fatto questa proposta di mantenere quindi non estrarre il petrolio sotto il Parco Nazionale dello Yasuní, quindi sotto l'Amazzonia, e rinunciare a oltre 7 miliardi di dollari di ricavi da petrolio, però chiedeva alla comunità internazionale di farsi carico almeno della metà dei mancati introiti, questo perché l'Amazzonia è un bene comune mondiale. Quindi dicevo, io rinuncio a 3 miliardi e 600 mila dollari di ricavi in 10 anni, rinuncio io come Stato dell'Ecuador, uno degli Stati più poveri del pianeta, però voi dovete contribuire all'altra metà, voi comunità internazionale, e io con quell'altra metà avvierò, io nel piccolo paese ecuadoregno del sud del mondo, un processo di trasformazione energetica, cercherò di passare dalla mia dipendenza da idrocarburi a una dipendenza da fonti alternative. Questo annuncio era rivoluzionario, era proprio nel 2007, prima della crisi finanziaria che tutti noi conosciamo, e quindi pian piano anche le reazioni entusiastiche degli stati più progrediti come Germania, più progressisti come Germania, Norvegia ed altri si sono spente, e oggi nell'agosto 2013 il presidente Correa ha dovuto rinunciare a questa iniziativa. Questo ha scatenato conflitti sociali interni al paese, quindi anche lì il conflitto è una conseguenza dell'accaparramento di risorse. Sì. Intendi dire, scusami, Giuseppe De Salvo, che c'era chi era pro e chi era contro questa proposta innovativa del presidente, quindi lì è nato il conflitto? Sì, diciamo, fino a quando il governo si è trovato costretto a rinunciare a questa proposta, tutti erano pro dentro il paese, perché questa proposta era l'orgoglio dello Stato dell'Ecuador ed era l'esempio concreto della realizzazione del famoso buen vivir, che tanti anche occidentali ha affascinato, no? Quindi questa possibilità di avere un rapporto con la natura diverso e di pensare a un sistema economico-sociale realmente alternativo a quello capitalista, che in questo momento oggettivamente è in crisi strutturale. Quando il presidente Correa è stato costretto a rinunciare a questa operazione, perché contemporaneamente doveva far emergere il paese da povertà e dare servizi essenziali, ovviamente questo ha generato una spaccatura all'interno del paese, tant'è vero che i movimenti ambientalisti, indigeni e anche altra parte civile hanno cercato di raccogliere le firme per fare un referendum, ci sono riuscite, quindi nell'aprile del 2014 hanno raccolto oltre 580.000 firme richieste, ma poi anche lì come effetto di questo scontro intestino la Commissione Nazionale Elettorale ha bocciato quel tot di firme necessario di fare al referendum, e quindi oggi c'è un ricorso nazionale che diventerà un ricorso alla Corte Interamericana per i diritti umani. Quindi quello che mi interessa dire è che l'ennesimo conflitto sociale dopo tutta la devastazione che è precedente in Amazzonia, che stiamo generando noi, perché poi in Amazzonia le imprese che vanno a estrarre petrolio si chiamano Repsol, si chiamano Agip, si chiamano Petrobras, si chiamano, insomma, ha molti nomi che hanno a che fare con o paesi ricchi o paesi in via di sviluppo, dove sappiamo c'è mai una grande disparità. Nessun luogo è lontano. Ultima parte di Nessun luogo è lontano in formato weekend, questa la dedichiamo alla parola terrorismo. Come è cambiato in questi ultimi anni, come si è organizzato, è cresciuto, ha cambiato luoghi, ha cambiato volto? Tutte domande che ci riguardano se solo pensiamo alle conseguenze che l'instabilità politica può avere nelle vite di ciascuno, a partire dal prezzo dell'energia fino alle ondate migratorie. Per capire lo stato dell'arte, soprattutto del terrorismo islamico, forse dovremmo dire dei terrorismi islamici, ho parlato venerdì con Lorenzo Vidino, che è un esperto appunto della materia di violenza politica al Politecnico di Zurigo. Diciamo che Al-Qaeda lotta in un certo senso per rimanere rilevante. Al-Qaeda come struttura originaria, quella che è diventata famosa con l'11 settembre 2001, è diciamo molto cambiata, ha molte difficoltà, esiste ancora, c'è il buon Ayman al-Zawahiri da qualche parte tra Pakistan e Afghanistan, che cerca in un certo senso di controllare quello che è diventato un franchise inizialmente di successo, ma poi in un certo senso vittima del proprio successo, in quanto adesso vediamo alcuni rami ufficiali e alcuni gruppi che si rifiutano di avere in alcun modo a che fare con Al-Qaeda, al quale magari riconoscono un debito storico, ma dal quale non si sentono controllati, non si sentono vincolati e reclamano un'indipendenza operativa. Non sono però poi sicuro, guardando un attimino queste dinamiche con un ampio respiro, che sia necessariamente un qualcosa che i fondatori di Al-Qaeda fossero necessariamente contrari. Al-Qaeda in arabo vuol dire la base. La frase era stata creata da Abdullah Azzam perché vedeva il gruppo come una base per il movimento jihadista globale. Sì. E uno dei più grandi storici ideologici di Al-Qaeda, che era Abu Musab al-Suri, diceva: Al-Qaeda non è un'organizzazione, né lo vogliamo che sia, è un movimento, è un'idea, è una chiamata. Quindi il fatto che adesso esistano altri gruppi che rifiutano il controllo qaedista, sì, in un certo senso potrebbe far parte di una visione generale, insomma l'ideologia è comunque un qualcosa che accomuna questi gruppi. Sì. E poi esistono spaccature interne, è un problema indubbiamente da un punto di vista tattico e può creare dei problemi al movimento, ma parliamo di un movimento a livello globale che esiste e che persegue obiettivi più o meno simili. Sì. E fra l'altro, se uno va a riguardare ad esempio la storia dello Yemen, no, che è legato a filo rosso sul tema Al-Qaeda con l'Afghanistan, vi fu fin dall'inizio, perché ricordiamo che Al-Qaeda adesso ha grosse basi in Yemen, è parte della sua nascita, no? Certo. Fu lì. Però appunto fin dall'inizio, fin dalla sua nascita, vi fu questa aspirazione transnazionale, comunque questo spostarsi, andare a fare il jihad dove c'era un fronte caldo, un fronte dove ci si potesse impegnare e poi eventualmente ritornare per cambiare le cose nel proprio paese. Però questa globalità, questa aspirazione globale, mi sembra che se uno va a guardare, e iniziamo a aprire il discorso, no? A guardare il mappamondo, se uno va a guardare Al-Qaeda nel Maghreb islamico, se uno va a guardare Boko Haram, eccetera, la seconda non si rifà direttamente Al-Qaeda, però mi sembra che siano tutte con ispirazioni molto più locali, molto più provinciali, che non abbiano forse quella aspirazione così globale che i leader di Al-Qaeda auspicavano all'inizio. Indubbiamente c'è stato uno spostamento, il focus di tutti questi gruppi è molto più locale. Vediamo che occasionalmente rimangono interessati al compiere attentati in Occidente, però probabilmente perché ritengono di avere la forza adatta, necessaria per poter cambiare le carte in tavola, per poter avere un successo nei propri paesi, determina questo cambiamento, questo ritorno al concentrarsi sui regimi locali. Anche qui in un certo senso era una strategia di Al-Qaeda. Al-Qaeda inizialmente dice: bisogna colpire il nemico lontano, cioè l'America, perché è solo tramite il supporto del nemico lontano che il nemico vicino, i vari regimi del Medio Oriente, riescono a resistere. Il momento in cui l'America, perché colpita da noi, comincia a disinteressarsi della regione, i regimi locali diventeranno deboli e noi potremo militarmente conquistarli. Le cose non sono andate necessariamente così per le azioni di Al-Qaeda, ci sono una serie di eventi geopolitici che vanno al di là di quello che Al-Qaeda ha operato, però da un certo punto di vista vediamo che ciò è successo, c'è un disinteresse americano alla regione, cioè da un certo punto di vista, e ci sono stati gli avvenimenti della primavera araba che hanno portato a un indebolimento di tutti i vari regimi della regione. E ciò ha portato questi gruppi a dire: ok, non è più un interesse primario il colpire l'Occidente, ma i regimi della regione che sono deboli in questo momento e quindi abbiamo l'opportunità di conquistare. L'Occidente diventa un obiettivo secondario. È chiarissimo. È possibile definire una matrice comune che lega questi gruppi, al di là appunto in parte il brand, in parte questa cosa che stavo dicendo adesso? Esiste un format, cioè i gruppi qaedisti, i gruppi terroristi, e poi le chiederò se ha senso parlare ancora di terrorismo. Non so, nel modo di strutturarsi c'è una gerarchia che è comune, un modo di organizzare i rifornimenti di armi, un modo di utilizzare la propaganda, quindi di postare messaggi su YouTube ad esempio. Si può individuare un filo rosso che in qualche modo è la ricetta, no, di Al-Qaeda nella comunicazione, nel rifornimento, nelle risorse, eccetera? Certo. Il filo rosso principale è quello ideologico, la sostanza è che tutti questi gruppi adottano con minime varianti la stessa ideologia. Quello che vediamo negli ultimi anni è un passaggio della maggior parte di questi gruppi da gruppo terrorista strutturato in cellule che si nascondono nell'oscurità e compiono attentati occasionali contro un obiettivo che può essere un obiettivo civile, un obiettivo militare, ma con un modus operandi tipicamente terroristico, a gruppi che aspirano a controllare il territorio e a creare un'entità parastatale, se non addirittura statale. Insomma, abbiamo visto quella dichiarazione del califfato, chiaramente molto ambiziosa, un pochino campata in aria, da parte di ISIS in Iraq e in Siria. C'è questo passaggio: Al-Qaeda non ha mai controllato territorio, agiva come gruppo che è devastante in certi casi, ma i nuovi gruppi, siano esse derivazioni dirette o più indirette di Al-Qaeda, mirano al controllo territoriale. Lo abbiamo visto in Yemen, lo abbiamo visto in Mali, lo abbiamo visto in Somalia e lo vediamo chiaramente soprattutto adesso in Iraq e in Siria. Il secondo aspetto, l'hai giustamente toccato anche tu, è la loro abilità nel saper gestire i media e soprattutto i nuovi media. L'abilità di tutti questi gruppi agire su Twitter, su Facebook, su Instagram, su una serie di social media è impressionante ed è una delle ricette del loro successo. Se un gruppo come ISIS può contare su migliaia di europei, per esempio, che vanno a combattere nel file del gruppo, è in larga parte grazie all'appeal mediatico che tale organizzazione ha, la sua abilità di essere cool, creare un messaggio attraenti, semplice, in qualche modo. Molto trendy, molto semplice, ma di una forza nell'audience che chiaramente vuole ricercare, è molto molto importante. Ecco, allora ha ancora senso parlare di terrorismo? Cioè, noi abbiamo iniziato questa puntata con la lettera T, no? T come terrorismo, quando stiamo parlando di controllo del territorio e in alcuni casi guerra aperta, perché se poi guardiamo la modalità con cui opera Boko Haram, ad esempio, è vero che colpisce di notte, però è vero che rapisce, però è armato pesantemente come un vero e proprio esercito, di fronte al quale spesso l'esercito nigeriano non è capace di fare nulla, può occupare interi villaggi e distruggerli. In alcuni casi mi sembra che questi gruppi continuano a definire terroristici, ma in realtà ormai abbiano perso quella caratteristica, forse anche dal punto di vista lessicale dobbiamo correggerci. Assolutamente, beh, c'è da dire che il tentativo di dare una definizione a terrorismo, insorgenza, è diciamo, uno di quegli esercizi che ha occupato gli accademici da decenni senza un gran successo. Le Nazioni Unite stesse non sarebbe mai arrivata a una definizione di terrorismo proprio per questo motivo. Però è indubbiamente vero che da Boko Haram in Nigeria all'Iraq e la Siria e in altri scenari di cui abbiamo parlato, sono più caratteristiche di gruppi insorgenti, paramilitari, con una struttura militare che controllano il territorio, che pongono un challenge diretto allo Stato. Diciamo che si può ancora parlare di terrorismo di matrice quindi jihadista in Occidente, per quelle che sono nel senso le derive che questi fenomeni che vediamo negli ultimi 2 o 3 anni in Medio Oriente hanno in Occidente. Penso ad esempio all'attentato di Bruxelles di qualche settimana fa, in cui un francese che aveva combattuto in Siria per un anno con ISIS è tornato e ha ucciso 4 persone al museo ebraico di Bruxelles. Questo è chiaramente un attentato che ha tutti i crismi del terrorismo. Però ciò che questo giovanotto faceva in Iraq e in Siria è più un'attività che non è terrorismo, è insorgenza bella e buona con combattimenti in campo aperto. Questa è l'evoluzione, ed è un'evoluzione preoccupante dettata dalla fragilità dei regimi nella regione. La scelta di compiere atti di terrorismo viene spesso fatta da questi gruppi, ma questo storicamente, non parliamo solo del jihadismo, sono dinamiche viste anche con gruppi siamo comunisti o dell'estrema destra in Sud America 20, 30, 40 anni fa. Si compiono atti di terrorismo quando non si può affrontare a campo aperto. Se si può affrontare a campo aperto si fa. E quindi in un certo senso 10 anni fa era più terrorismo perché in nessun paese questi gruppi potevano controllare territorio. Adesso in varie parti del mondo arabo e anche ai confini del mondo arabo, al di là dei confini, riescono a occupare territorio, quindi c'è questa naturale evoluzione dettata dalla debolezza dei regimi che vengono a combattere. Cioè il paradosso è che più queste formazioni si rafforzano localmente, più l'Occidente, perdonate se ragioniamo un po' schematicamente per slogan, è al sicuro, perché alla fine le risorse, le ambizioni e le tensioni di questi gruppi vengono sfogati sui regimi locali, e quindi fatto salvo l'episodio di Bruxelles, che giustamente a cui facevi cenno, alla fine insomma il grande nemico si è spostato, non c'è più. È un'interpretazione pericolosa, chiaramente c'è una tentazione di vederla in questo modo. C'è chi vede ad esempio il passaggio di centinaia, migliaia di europei, musulmani europei, jihadisti, aspiranti tali che vanno in Siria e in Iraq come una valvola di sfogo, bene, vanno lì, si fanno ammazzare lì, sì. e non fanno niente qua. È secondo me una linea sbagliata, perché comunque mi guarda solo al breve e non guarda neanche al medio termine, perché comunque quelle che possono essere le ripercussioni già solo un domani possono essere molto molto pericolose. Gruppi come ISIS, ma come Al-Qaeda stesso, hanno una visione comunque globale. La priorità al momento è in certi determinati teatri in Medio Oriente, ma per un insieme, per un qualsiasi insieme di fattori può cambiare immediatamente. Esistono poi schegge impazzite che addestrate da questi gruppi possono tornare e compiere attentati. Quello di Bruxelles è solo uno dei vari attentati che sono stati preparati da questi soggetti, ce ne sono stati altri almeno tre sventati in Europa negli ultimi mesi. E poi è chiaro che comunque la destabilizzazione della regione, adesso non vorrei comunque esagerare, perché comunque esistono varie forze che non vedo il Medio Oriente completamente conquistato da ISIS e altri gruppi, assolutamente, però comunque la destabilizzazione che sta portando ha delle conseguenze importantissime dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista economico e politico per l'Occidente. E con quest'ultimo intervento di Lorenzo Vidino, esperto di terrorismo e violenza politica, chiudiamo questa puntata di Nessun Luogo è Lontano della domenica. Vi aspetto domani e poi per tutta la settimana alle ore 16. Intanto una buona serata da Gianpaolo Musumeci.